Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Buonasera a tutti carissimi amici di Runtime Radio e Quando eravamo futuro, benvenuti a questa nuova puntata sicuramente, ma in particolare ultima puntata di stagione. Questa è la settimana dei saluti, diciamo, dopo ieri che c'è stata questa bellissima puntata di archeologia informatica su Tron, che trovate già disponibile per la rivisualizzazione o eventualmente ve la foste persa, potete tranquillamente trovarla sul canale YouTube di Archeologia Informatica, e da domani sarà anche disponibile in versione podcast direttamente sui nostri feed come al solito. E questa sera invece, in Quando eravamo futuro, siamo qui per chiudere anche questa seconda stagione di questo programma, che quest'anno, insomma, devo dire, ci ha regalato delle belle sorprese. Abbiamo fatto delle puntate serie, delle puntate molto più allegre, delle puntate che l'attenzione. Detto questo, vedo che già si sta assiepando, insomma, un certo numero di persone. Se sentite durante questa diretta naturalmente dei piccoli problemi tipo cani che abbaiano, è perché siamo praticamente per strada a fare questa trasmissione, perché non si può assolutamente, ed è il motivo per cui le trasmissioni di Runtime stanno ovviamente chiudendo. Vi ricordo comunque di andare su www.runtimeradio.it, c'è un pulsante che si chiama Anche Io, dove potete tranquillamente andare con una certa grazia e gioia a trovare qual è il metodo migliore per poter contribuire al nostro network, che come sapete ora va in pausa, ma che a settembre tornerà con una nuova sfavillante, meravigliosa stagione piena di nuovi contenuti e anche delle sorprese, delle novità abbastanza importanti che continueranno nel progresso verso il diventare sempre di più effettivamente una radio. C'è con me ovviamente in questo episodio di Quando eravamo futuro c'è Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, ciao, grazie, benvenuti a tutti gli ascoltatori, e grazie anche per chi ha già ascoltato la puntata di ieri di chiusura di stagione di Archeologia Informatica, e per chi non l'ha ascoltata, ovviamente ascoltate. Ringraziamo tutti quelli che hanno fatto le donazioni, che come al solito ci lasciano sempre veramente a bocca aperta, perché ci fa piacere che venga riconosciuto anche quello che facciamo, ma allo stesso tempo comunque non possiamo non riconoscere una generosità, insomma, in attesa da un certo punto di vista. Quindi grazie a tutti, ma soprattutto ringraziamo per i feedback positivi della puntata, che ci ha fatto molto piacere sapere che questa puntata è piaciuta moltissimo a tanti di voi. E intanto io diventerò cieco e praticamente vedrò rosso da domani, perché questa luce verde sparata in faccia il mio cervello la compenserà con un alone rosso, quindi. Ma tu di verde rilassa, il verde, e io infatti sai che è il mio colore, il verde. Davide Gatti, ciao, buonasera a tutti. Volevo ricordare che l'episodio di ieri non solo lo potete sentire, ma lo potete vedere anche, e quella è la cosa bella. Sì, esatto, potete vedere le nostre belle facce che parlano. Poi dopo un giorno faremo un montaggio dove parlo io ma si muove la bocca di Simone, le invertiamo, così vi creiamo confusione. Beh, non sapete chi è. In merito a questo, adesso lanciamo anche un trailer, così ci spieghi un attimo, perché ovviamente Carlo è il direttore editoriale di Archeologia Informatica, quindi cercate Archeologia Informatica su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi, condividete, fate like. Ma Davide Gatti è ovviamente l'autore e oramai la star, insomma, di YouTube con il suo Survival Hacking. Anche lì cercate il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, guardatevi i video, mettete like, condividete, fate tutto quello che dovete fare. E vi ricordo una cosa, proprio in merito a questa cosa che lui ha detto, che non so se era proprio una puntata di Archeologia Informatica, ma già registrammo una puntata, eravamo tre o quattro ospiti, e praticamente la puntata, alla fine della registrazione, mancava la traccia di Davide. Non ricordo bene qual era il problema. No, non era Archeologia Informatica, era Ludico Forum. Ludico Forum, quello che era. Sì. E tutti al posto, cioè nel senso, per come siamo abituati noi, che è successo nei vari 10 anni che abbiamo fatto podcast, è successo poche volte, ma è successo. tutti avremmo detto vabbè sti cazzi, dai, la buttiamo, poi un giorno la riregistriamo la puntata, perché noi la facciamo. Invece Davide, che è un pazzo, che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa incredibile, perché poi se uno non lo sa non si rende neanche conto del lavoro che ha fatto. Cioè lui ha ripreso le tracce che erano residue dal feedback che riusciva ad intercettare con un lavoro tutto suo dalle cuffie degli altri, ha ricostruito quello che diceva lui, ma addirittura con l'intonazione, con l'inflessione, cioè, insomma, ha ricostruito completamente tutta una traccia, la sua traccia audio. Si è ridoppiato. Mi sono ridoppiato ascoltando il rientro della cuffia di Alex, che si sentiva abbastanza. Ho isolato tutta la sua parte, mi sono fatto lo script, l'ho recitato, lo ascoltavo, l'ho ridoppiato e ho fatto due tracce. Era soltanto sincronizzato. Era recitato proprio esattamente come se fosse la traccia originale, cioè è una cosa incredibile. Era la mia prima volta che avevo registrato con voi, era l'episodio della PlayStation, del chip, della modifica del chip, quello che Carlo mi ha subito ammazzato dopo due minuti. Non solo te, non tutti. Comunque ci siamo divertiti e è stata, ecco, quello lì era il chip della globalizzazione, era il titolo. Quindi per cui sentite quell'episodio, il chip della globalizzazione, credo archeologia. No, non era massa, scusate, no, se mi era archeologia, che non l'avrei cassato. Era qualcosa. Voi cercate il chip della globalizzazione, ascoltatelo, è anche un bel episodio. Poi non è tutta verità, però è più o meno quello che sentivamo. Poi dopo, allora, intanto salutiamo Caleb e Giovanni, che sono già presenti in chat, insieme anche a Roberto Strauss. Ragazzi, allora, Davide, presentaci questo trailer, lo facciamo vedere e poi iniziamo nel vivo di questa puntata, che non vuole essere proprio una puntata monotematica come di solito succede, ma vuole essere più una cosa, un po' una sorta di una festicciola di fine anno, insomma, dove un recap quasi. Esatto, cioè, diremo delle cose noi e vorremmo poi ovviamente anche il vostro contributo, e se volete potete farlo anche tramite dirette runtime sul canale Telegram punto nostro, dirette runtime, mandando anche degli audio e possiamo anche farli sentire, insomma, quindi potete fare tutto. Allora, Davide, allora il trailer che vedrete è del video che uscirà domenica. Ed è un oggetto che tutti voi conoscerete quando lo vedrete adesso, è un trailer che dura circa due minuti, dove un giorno, guardando un video di una persona, ho visto sto coso e ho detto ma cavoli, ma che bello, e da lì mi è venuta l'idea, ho detto adesso lo ricostruisco. Ma cos'è lei che l'è? E adesso lo ricostruisco elettronicamente. In questo trailer vedrete 5 giorni di lavoro compressi in 2 minuti dal aver visto la cosa, averla costruita. Benissimo, via col trailer. Che è successo? Non ne ho idea che cosa è successo, ragazzi. Ogni volta ce n'è una, quindi dobbiamo essere sempre felici di vedere. Io aspetta, Telegram non ha finito di scaricarmi. La trasmissione riprenderà nel più delle... sta verificando. Vabbè, provo a riscaricarlo, lo facciamo vedere dopo, facciamo. Va bene, va bene. Non capisco, come al solito quando si tratta dei trailer di Davide c'è sempre qualche problema, ma non dipeso da lui naturalmente, chiaramente. Comunque, diciamo che l'idea di questa puntata era, riflettendo fra di noi, cioè nel senso trovando anche un tema leggero come finale di stagione, ci siamo chiesti di scrivere in un documento le tre cose che ci mancano di più degli anni 70 e 80, quindi di secondo la nostra esperienza. Queste cose possono essere cose fisiche, oggetti, come possono essere anche cose astratte in generale. Nel documento chiaramente, diciamo, Carlo ha scritto la cosa più astratta in assoluto, cioè nel senso è una di quelle cose che uno direbbe grazie al cazzo, insomma. A parte oggi, come sapete, non ho avuto niente tempo, sono arrivato 20 secondi prima che iniziasse la diretta, e è stata una giornatina di quelle che insomma, non sono riuscito a fare nulla se non lavorare oggi, e purtroppo. E quindi anche quando mi sono messo quei 5 minuti per scrivere, scrivevo una frase di quello che pensavo mi mancasse, poi ci pensavo e lo cancellavo, poi la riscrivevo e lo ricancellavo. Alla fine mi è venuta quella roba lì, però diciamo anche che vediamo, dai. Comunque una settimana, cioè ho comunque avuto una settimana di tempo. Forse no, non ce l'ho avuta la settimana, perché ieri dovevo preparare la e anche in serie, vergognati, insomma. Appunto. Appunto. Esatto. Infatti lui è tornato più provato dalle ferie rispetto, esatto. Comunque volevo iniziare io, poi ecco ragazzi, chi ci sta ascoltando tra l'altro dai vari gruppi Facebook, se volete ragazzi io vi consiglio di andare su YouTube e cercare il canale YouTube di Runtime Radio e iscrivervi su quel canale e seguirci da quel canale, così facciamo crescere anche questa piattaforma. Infatti piano piano tutti questi multilink, multistream che stiamo facendo, piano piano cominceremo un po' più a focalizzarli, a polarizzarli, proprio perché insomma è anche inutile un po' sparpagliare, diciamo. Abbiamo un nuovo speaker di Runtime Radio, il cane. Il cane, sì, sì, l'ho detto, sto fuori dalla finestra praticamente. Comunque, inizio io. Poi, ragazzi, se volete, a un certo punto, quando, come, cominciate a scrivere e a dire le cose che vi vengono in mente, anche a voi, se vi vengono in mente, chiaramente. Allora, io faccio un discorso un po', diciamo, astratto, molto astratto, che però in realtà è legato alle tre cose che io penso, che sono anche loro, volendo, astratte tra virgolette, anche se sono connesse e collegate a tutta una serie di situazioni, però diciamo che queste tre cose che io ho scritto hanno un minimo comune denominatore, secondo me, che sono praticamente il no, intanto continuano a passare persone come se è tutto a posto qua, non c'è finta niente oggi. E il comune denominatore è proprio il senso di libertà da un certo punto di vista, cioè certi legami, certi vincoli anche tecnologici che oggi noi diciamo affrontiamo o comunque subiamo o viviamo e che comunque hanno condizionato la nostra esistenza e anche in senso positivo, quindi non sto facendo questo discorso in accezione assolutamente negativa, però certamente quello che ci hanno dato, come ogni compensazione dell'universo, qualche cosa ci ha tolto. Perché se noi oggi possiamo connetterci e comunicare con chiunque, essere sempre reperibili dal punto di vista professionale, trarne un vantaggio, guadagnare tempo rispetto a tutto questo, sicuramente ne abbiamo perso in libertà. Se poi diventate come Carlo, vedete, distrutto. Un uomo distrutto. Distrutto dalle vacanze, poi, ragazzi. L'uomo distrutto dalle vacanze. No, no, è proprio perché sei reperibile, sei sempre al telefono, parli ovunque tu sia, ed è sì, quello, esatto, che ti distrugge. Infatti secondo me il mio primo oggetto, cioè la mia prima cosa della quale sento la mancanza è il senso di irreperibilità. Perché tu dici ok, spegni il telefono e ogni tanto io lo faccio, devo dire la verità, e hai risolto il problema. Ma in realtà non è così, perché oggi la nostra vita è talmente condizionata da un certo punto di vista che anche spegnere il telefono è, diciamo, quasi un senso di un atto di irresponsabilità, no? Da un certo punto di vista, non so se condividete, diciamo, questa mia, cioè, questo mio punto. Dipende, però sì, è un senso di responsabilità, perché alcuni che avrebbero bisogno di poterti rintracciare non ti rintracciano, i figli se hanno bisogno di qualcosa non ti trovano e tutta una serie di determinate cose che però, voglio dire, erano le stesse esigenze di 40 anni fa, soltanto che allora non si poteva fare, cioè nel senso, allora abbiamo guadagnato un qualcosa, ma abbiamo anche perso, secondo me, perché il senso di irreperibilità, secondo me, è uno dei fattori che a volte mi manca di più. Il fatto, cioè io a volte vedo, mi viene in mente quando ero sull'autobus da ragazzino, e sì, a volte c'erano i Walkman, chi più fortunati ci avevano, vabbè, il Game Boy magari venuto dopo, però insomma, comunque magari ce l'avevamo sempre un oggettino, però diciamo in linea massima eravamo liberi dal, invece oggi è tutto uno scroll, cioè nel senso, non è un discorso da boomer questo, cioè lo è sicuramente, però chiaramente io posso fare un confronto rispetto al fatto che a volte penso che avevo la mente più libera perché era meno occupata da tutta una serie di elementi che entravano in continuazione anche quando tu non vuoi, perché comunque bip, notifiche, buttaci un occhio, che fai, anche se non ti interessa, chi ha chiamato, no, non rispondono, si rispondono, tutta una serie di determinate cose. Certo che questa cosa poi aveva anche un, come diciamo, un vantaggio, che era quello anche di prendersi un impegno, no? Quando tu prendevi un appuntamento con la fidanzata o con l'amici, tu quando c'hai l'appuntamento, c'hai l'appuntamento. Non è che a un certo punto, mentre gli altri erano usciti di casa, tu potevi dire: oh, basta, no, oggi non me va, mi è venuta la cagarella. Cioè, il problema era anche un po' questo, no? Nel senso che non è che potevi avvisare di quello che era successo. Ad esempio, tu prendevi, uscivi e andavi all'appuntamento, ma poteva succedere chiaramente che non potevi andare all'appuntamento perché all'improvviso succedeva qualcosa di sbagliato, oppure arrivavi all'appuntamento e aspettavi magari un'ora e mezza, perché andartene, cioè nel senso, te ne potevi andare, però magari vuoi andartene e la persona comunque stava arrivando, tu non lo sapevi se stava arrivando o no. E grazie a Dio poi a volte c'erano le cabine, tu telefonavi magari all'amichetto tuo, gli dicevi: ah, guarda, rispondeva la mamma: ma che è uscito Cristiano? Sì, è uscito 20 minuti fa. E quindi tu ti incazzavi perché era uscito tardi, però era uscito, quindi oramai ti toccava aspettarlo, cioè nel senso... Sì, dire. Comunque eravamo sicuramente molto più limitati, ma trovavamo sempre qualche mezzo per riuscire comunque a ottenere risultati. In qualche modo. Però c'è, io, Gigi? C'è Gigi? No, per esempio io, e qui chiudo questo primo punto, per esempio io mi ricordo, stavo giocando a... Diciamo che questa è una cosa che è successa dopo, è oltre gli anni 70 e 80, però è ancora valida, perché quel tipo di tecnologia di cui stiamo parlando, magari sono gli smartphone, comunque ancora non è entrata nelle nostre vite, perlomeno nelle vite delle persone comuni, diciamo così. Ed io un pomeriggio stavo giocando con il mio amico Daniele Diretti, che saluto, insomma, che vedo pochissimo purtroppo, ma siamo veramente cresciuti insieme, cioè proprio nello stesso palazzo, quasi la stessa età. E stavamo giocando a Kickoff, sua amica, e io avevo questo appuntamento con sta ragazzetta, e un quarto d'ora prima, diciamo, dell'appuntamento, quindi avrei dovuto già essere uscito da un pezzo, e nel senso, mi era venuta la voglia di giocare a Kickoff. Non avevo più voglia assolutamente di uscire. E praticamente, vabbè, poi successe, insomma, che alla fine questa è stata lì a aspettare. Quando è tornata la sera a casa, mi ha riempito delle bestemmie, chiaramente, giustamente anche, no? Però ecco, insomma, diciamo che se tu facevi una cosa che oggi la puoi fare, perché dici: ok, comunque, senti, guarda, non posso venire anche agli ultimi 5 minuti, comunque una persona la avvisi, anche se è già uscita, anche se si incazzerà uguale, no? Però allora questa cosa non si poteva fare, cioè, se una persona era uscita, basta, cioè non, o ci andavi o facevi la figura dello stronzo, insomma. Quindi questa... guarda, su questo argomento qua ne racconto una anch'io veloce. Una cosa che è capitata è che, non esistendo il telefonino in quel periodo, come tutte le volte che si organizzava qualcosa, insomma, una sera eravamo un gruppo di quattro amici con quattro automobili, e l'appuntamento era all'uscita di Giussano per andare in un certo ristorante che nessuno sapeva dove era, lo sapeva solo quello che ha organizzato. Forse non avevamo neanche il nome di quel ristorante, non mi ricordo. So che alla fine eravamo tranquilli, ci vediamo all'uscita di Giussano e poi dopo andiamo tutti assieme. Io quella sera l'uscita di Giussano l'ho anche trovata, ma il benzinaio prima dell'uscita di Giussano non l'abbiamo visto e l'abbiamo perso, insomma, non sapevamo dove andare. Noi siamo andati, abbiamo andato avanti, indietro, abbiamo cercato, non abbiamo trovato nessuno, e alla fine siamo andati a mangiare per i fatti nostri, e le altre persone ci hanno aspettato, eccetera. E poi il giorno dopo abbiamo fatto il riassunto, no? Dico: ma dove cazzo siete finiti? E noi siamo usciti di Giussano, non abbiamo trovato niente. Guarda, eravamo fermi al benzinaio, a un certo momento hanno spento tutte le luci, spento tutto, è scomparso quel benzinaio. E comunque alla fine siamo andati a mangiare in posti separati e non abbiamo avuto modo di riorganizzarci. Io mi sono fermato a una cabina, ho telefonato a casa mia, ho detto: se chiamano, ditegli che noi siamo in questo ristorante, cioè proprio robe così appoggiati con chiamando a casa eccetera, e lì non siamo riusciti a organizzarci. Se avessi avuto il cellulare in 5 secondi ci saremmo sincronizzati, neanche, perché bastava che mi dicesse dove dovevamo andare, io mettevo il navigatore e arrivavo, fine. E invece in ci siamo persi tante volte. Scusa, c'è mia moglie che mi ricorda una roba. Sto ridendo come un pirla perché avevamo un appuntamento, io ero in Germania e questo appuntamento non sapevo dov'era e l'hanno comunicato ai miei genitori, hanno detto guarda è domani sera in questo posto eccetera. Il posto si chiamava Morimondo, che è una roba qua in Lombardia, no? Morimondo è in Piemonte. In Piemonte. Mio padre ha capito Boribotto. Allora io arrivo a casa e ho tipo appuntato a Boribotto. Insomma, io sono partito per Boribotto, ragazzi. Parto, e la mia macchina era parcheggiata ferma da una settimana. Parto, al primo semaforo si spegne la macchina, batteria zero, e rimango fermo. Mio fratello mi viene a prendere, insieme a lui andiamo a Boribotto. Insomma, non so come cazzo siamo riusciti ad arrivare, ci siamo fermati 20 volte a chiamare cabina ai miei, oh ma dov'è sto posto? Poi quelli la chiamavano, insomma alla fine sono arrivato, è stata una roba incredibile, però è bestiale, Boribotto. Ma infatti sei arrivato a Morimondo. Sono arrivato a Morimondo alla fine, oh. Sì, però una peripezia che mi ha portato mio fratello, ragazzi. Per me, guarda, il discorso legato al telefono è forse l'elemento potenzialmente più significativo di questa grossa transizione, perché in effetti a me è capitato, ad esempio, una volta in particolare, è capitato diverse volte, però una volta in particolare, di non poter tornare a casa la notte e essere con degli amici perché si era fermata la macchina. Alla fine questo amico ha detto vabbè rimanete a dormire qua e vabbè, e avere telefonato a casa magari a l'una di notte con i miei magari che dormivano e dire guarda non posso tornare perché si è fermata la macchina, ci vediamo domani, cioè nel senso comunque in qualche maniera oggi te saresti organizzato, saresti anche tornato, insomma, nel senso. Comunque io voglio dire una cosa, perché tu Simone hai esordito dicendo abbiamo guadagnato qualcosa ma abbiamo perso qualcosa, mi manca questo senso del rimanere, diciamo, distaccato, no? Della solitudine, della non reperibilità. Disconnesso. Però poi, però poi dopo tutti i racconti che hai fatto e che ha fatto Davide e anche quelli che mi ricordo io, sono tutti racconti negativi, che adesso sarebbe meglio, quindi io devo dire che a me non manca, francamente. Io l'ho premessa questa cosa, cioè nel senso che è chiaro che nel guadagnare la connettività e quindi la possibilità di risolvere oggi un problema che allora non potevi risolvere, però la controparte rispetto a quello che tu hai perso è appunto la possibilità di essere disconnesso e anche di riposare la mente comunque in qualche maniera. Io ero talmente incasinato anche in quegli anni che fate conto che a me avevo un soprannome, alcuni miei amici mi chiamavano occupato, perché il mio telefono di casa era perennemente occupato, 24 ore... No, il mio era occupato da un modem, No, anche dal modem, ma anche dalle telefonate, nel senso che io ero sempre al telefono, già col telefono fisso, telefono, telefonate, modem, tutto sempre occupato, sempre connesso già a quell'epoca, quindi non vedo quella grande differenza. No, diciamo che è vero. Allora, sono delle migliorie. Ecco. Abbiamo raccontato tutte le cose negative e sicuramente il mezzo ci facilita, però io ho compreso cosa intende. Allora, perché raccontare le cose negative adesso dall'altro punto di vista è un po' più difficile, cioè quando tu esci e ti chiamano delle persone che avresti voluto che non ti chiamassero, ma alle quali devi comunque rispondere, e quindi sei sempre connesso non per tua volontà. È un conto se sei tu che chiami, se sei tu che fai eccetera e sfrutti il mezzo di comunicazione e va bene, diversamente quando ti sarebbe piaciuto non essere raggiungibile. È vero che puoi sempre spegnere il telefono e far finta che non sei raggiungibile eccetera, però diciamo che per i professionisti spesso il telefono è fonte di lavoro, ma è anche a volte fonte di grosso stress, perché se te tocca sempre dover esserci anche quando magari... Ma è, E comunque cioè, nel senso, sono anche studi scientifici, no? che comunque affrontano questo tipo di tema. Comunque l'iperesposizione porta anche all'iperelaborazione, quindi comunque tu oggi subisci una quantità di informazioni che è comunque estremamente superiore a quella di cui tu ne hai bisogno. Questo è un dato. Poi dopo che vogliamo fare quelli che quanto è figa la vita adesso rispetto alla vita di allora, va bene, non c'è problema. Simone, parlando seriamente, cioè il fatto di subire una quantità di informazioni molto più elevata di una volta è un dato di fatto, che poi questa quantità, però, dire che questa quantità di informazioni che subiamo è molto superiore a quanto ne avremo bisogno, su questo non sono d'accordo, nel senso, chi lo può dire se è superiore o inferiore a quanto ne avremo bisogno? Per me non lo è, probabilmente è un fatto, diciamo, personale, il fatto di avere o non avere questa grande quantità di informazioni. Per i nostri figli è normale. Esatto, esatto, stavo dicendo, a livello generazionale è tutta l'altra cosa. Esatto, e quindi non vedo che... Questo, non l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto su tutte le puntate, ma siccome questa è la puntata di che cosa ti manca o non ti manca, sì, no, ma io sono di 40 stato anni fa, a te no, era... tuo figlio, perché cioè, è chiaro che tuo figlio ma tu hai il confronto, quindi cioè... Simone, scusami, era la punta, la frase che hai detto prima, non sul tema, hai detto prima che ci sono studi che dimostrano che la quantità di informazione che subiamo è molto superiore a quella che avremmo bisogno. No, non è così, nel senso che è molto superiore, punto. Poi dopo se ne avremo bisogno o no, quello è una soggettivo, cosa soggettiva. È un po' soggettivo, vabbè. Va bene, io invece volevo, ovviamente un po' sul filone carlistico, perché come anche carlistico per no. Carlistico nel senso che obiettivamente Carlo ha detto: io ho scritto delle cose pensando che mi mancassero, poi dopo le ho cancellate, le ho riscritte, le ho cancellate, perché alla fine uno fa un resoconto e dice, che è la mia frase iniziale del mio pensiero, che dice: premesso che oggi non c'è nulla che mi manchi, in particolare degli anni 80, e che tutto quanto c'era in quegli anni oggi esiste 100.000 volte più performante e produttivo, di fatto non è che mi manchi qualcosa che vorrei. Ci sono però delle cose che mi procurano una forte sensazione di nostalgia e che ho fatto molta fatica a separarmene, però in realtà non ci manca nulla, voglio dire, nessuno vorrebbe neanche tornare indietro, se non solo, come dice Carlo, ovviamente, perché se torno indietro ho 18 anni, ho 16 esatto. anni, ho 15 anni, ho 13 giovane. Anni, solo quello è l'unico motivo. No, quello è ovvio, cioè, sottinteso, se si, quando esatto. si fa una puntata come questa si chiede anche uno sforzo di fantasia, no? Certo, no. È chiaro che non stai parlando di una cosa che ti manca, solo Dio, come faccio io adesso a essere cioè, disconnesso dalla rete? Cioè, comunque, se io dovessi fare un ragionamento, che cos'è che mi manca a me in maniera particolare è la possibilità che c'ho anche adesso, ovviamente, ma purtroppo poi ci sono tutta una serie di fattori esterni che magari me lo impediscono, vuoi anche il senso di responsabilità, perché comunque oggi lo strumento c'è e quindi non puoi ignorarlo, no? Nel senso sì, però il senso di responsabilità ce l'avevi anche una volta a rispettare l'appuntamento con la ragazza esatto. che gli hai dato buca, quindi esatto. più o meno la stessa però, diciamo, cosa. Diciamo che potenzialmente il danno che facevi in quel caso, che era più la ragazzata, è esponenzialmente certo, eri giovane. C'è un fatto, c'è un fatto. Al cliente o non rispondi al sì, ma eri giovane e avevi la ragazza, se al tempo eri vecchio e dovevi lavorare e non rispettavi l'appuntamento era la stessa comunque cosa. Da quello che vedo capiamo che rispettavi sempre gli appuntamenti, se non era che Simone era un irresponsabile anche quando era giovane. mandavo buca alle ragazze e altre cose, immagino. Comunque vabbè, non so se posso raccontare fai col tuo punto. Guarda, uno del mio punto non è che mi manchi eccetera, però è una di quelle cose che, nonostante il tempo, nonostante tutto, nonostante quello che vuoi, è una di quelle cose che ancora il mio cervello ha qualche piccolo problema nell'inquadrare, no? E parliamo delle lire, per quelli che le hanno viste nella vita, no? Perché Davide, molti vedo sfocatissimo. Non sì, so hai siamo... ragione. E mi è andato fuori fuoco la camera, adesso do due secondi che... Speriamo mi metta fuoco, ecco, ok. le webcam con l'autofocus succede che più che qualche volta va fuori focus. Non capisco neanche che senso c'ha l'autofocus in una webcam. In effetti. E perché se ti allontani ti mette a fuoco, non so, vabbè, comunque. Parliamo delle lire, cioè le banconote. Molti di quelli che ci ascoltano non hanno neanche mai visto, non sanno neanche cosa sono, ma noi che abbiamo praticamente vissuto e misurato. Ciao Vincenzo, che non t'avevo visto, Vincenzo. Ah, ok. Ciao Vincenzo. Diciamo che noi che abbiamo misurato, ci siamo calibrati, abbiamo avuto per anni la lira come strumento di misura più che come strumento per il pagamento. Cioè, quindi quando vedevi una roba che costava 1000 lire, avevi idea istantaneamente del suo valore, del suo peso, eccetera, no? Quando è arrivato l'euro, subito per diversi anni abbiamo avuto difficoltà a pesarlo, no? Tu lo vedevi, costava un euro, dici, boh, fammi fare un conto, un euro sono 2000 lire, quindi costa, insomma. Allora, lì, per un po' di anni abbiamo fatto la conversione mentale, poi pian piano ci siamo abituati, però ci siamo abituati. No, sì, c'era la calcolatrice, vabbè, da Berlusconi, ricordiamoci. È vero, cacchio, è vero, anche quello. Però diciamo che dopo una fase iniziale di conversione in lire per avere ancora la sensazione del peso, oggi ormai siamo abbastanza abituati. Beh, però cazzo, sono di 20 anni, cioè. Sì, però nonostante tutto con l'euro riesco sempre a fare più fatica a pesare le cose di quanto lo facevo con le lire. Con le lire, secondo me, non lo so perché, avevo una sensazione di avere più l'idea di questa cosa, se costasse poco, tanto di più o di meno, rispetto con gli euro. Non so, sarà una mia restrizione mentale. Ci racconta anche quanta soggettività c'è in generale sulle cose, perché io per esempio non l'ho sofferto il passaggio alle lire. Io un po' l'ho sofferto. Quei due anni di transizione che in qualche maniera ci hanno addestrato, per è vero pure che io ero molto più giovane, quindi magari ecco, cioè quella cosa molto più giovane, adesso non esageriamo. Rispetto a Davide, sì. Molto, quanti anni hai di differenza, Davide? 5-6, non è che ne hai. Eravamo sempre uguali come differenza, anche quando. Scusa, non mi ricordo. 65. Beh, dai, cazzo, ci sono quasi 10 anni tra me e lui. È una generazione. Nel 72. Vabbè, comunque diciamo che non la rimpiango. 72, però, sono 7 anni, però non mi è dispiaciuto. No, non più coglioni ho questo oggi, cioè non ci veni più a fare i programmi, eh. Comunque diciamo non la rimpiango, però non mi dispiaceva la lira, insomma, tutto sommato, ecco. Okay. Ed è una cosa che se anche tornasse, Davide Gatti sovranista, insomma, non mi darebbe particolarmente fastidio. Mi piace l'idea di avere una moneta unica, ovviamente, quindi la lira unica. Ma lo sai che tra l'altro un mese fa, tipo un paio di mesi fa, dentro casa di mia suocera, a un certo punto mia suocera diceva: ma che c'è qui? A un certo punto ha tirato fuori sto borsello, c'erano tipo 5 milioni in lire. 5 milioni in lire che lei si era tenuta al pizzo, non si sa per quale ragione. Infatti, ha buttato via 5 milioni, sì. Pazzesco. Sì. E infatti il marito se l'è tipo un attimo. Diciamo che si possono vendere come banconote antiche, sì, è un valore, ce l'hanno. Sì, vabbè, sì. Io me ne sono prese alcune banconote. Forse 2500, dipende da che banconote sono. Se riesci a rifarci 2500 euro, più o meno pareggi. Ma io non credo che ce le fai. Beh, ma le puoi vendere come moneta, se sono tenute bene. Sono banconote grosse, valgono. Guarda che le 50.000 lire o le 100.000 lire. Okay. Lì sì, erano piene. Se sono poi in buone condizioni, secondo me le vendi come banconote, insomma, da raccolta. Ho fatto in tempo a vedere 500 lire di carta, quindi insomma, che... Vabbè, sì, vabbè, io anche le 2 lire, io le 2 lire, le 2 lire me le ricordo anch'io, le 2 lire che sono del 70, ma me le ricordo. Il meno che ho visto è 2 lire. Le 2 lire erano leggerissime, me le ricordo, erano di una specie di latta. Sì, esatto, c'era solo una specie di roba fatta da un delfino, giusto, sì. Un delfino. E me la ricordo pure io, voi me lo dite. Usate erano le 5, aspetta, col delfino e le 5 lire, le 2 lire. Le 2 lire. Allora, le 2 lire erano tipo le 200 lire. Esatto, erano color bronzo. Vincenzo, insomma, dice che lui tace perché lui è più vecchio di tutti noi. Lui conosce, lui ha visto anche le 500 lire d'argento. Vabbè, ma quelle le ho viste anch'io, giravano ancora le 500 lire d'argento, e poi c'era la famosa 500 lire d'argento con la caravella sbagliata che valeva, esatto, un sacco di soldi, sì, e il gettone telefonico da 100 lire, ma lì ne abbiamo già parlato, che sì, quando sì, sono passati del valore dai 500 lire di carta, erano una tovaglia, erano, cioè nel senso, beh, la tovaglia erano più piccole delle 1000 lire. Sì, sì. Insomma, no, no, cioè, no, ci sono alcune, quelle ancora più vecchie. Ah, quelle più vecchie, sì. Quelle rosa, sì, non so se ve le ricordate. Sì, sì, quelle le ho viste solo da collezione. Film, esatto. O nella collezione. Quelle così. Sì. I mini assegni. Invece il primo punto di Carlo, no, non c'è i punti di Carlo. Carlo è venuto qua. Io no, non so come ho detto, gol. Tempo zero, però ho scritto delle cose, le ho cancellate, però... Alla fine mi sono reso conto che effettivamente l'unica cosa che mi manca è se dovessi dire effettivamente cosa mi manca, essere giovane, cioè tornare indietro in quegli anni, però grazie al CAC, come dici, esatto, nel senso, è ovvio, ma la verità è che pensandoci bene, in effetti, ci ho pensato, ho pensato, ho letto quello che aveva scritto Davide, ho pensato anch'io al cinema, in effetti c'erano i film che mi piacevano, però ho detto sì, vabbè, però mi piacevano perché mi ricordo i bei film adesso, però se guardo anche adesso posso andare al cinema e divertirmi, anzi ci sono anche i cinema più belli di come erano una volta. Mi manca la compagnia, l'uscire, certo, ho due figli, sono sposato, lavoro, non è che posso fare come i ragazzi che escono e vanno in giro, e mi manca. Ma tu hai noi, Carlo, tu hai noi, fai le live con noi. Noi usciamo, ma ormai diciamo che... A noi ci chiamano ragazzi, ci chiamano ragazzi. Però diciamo che effettivamente tutto quello che si poteva fare all'epoca si può fare anche adesso, anche le cose di cui ho nostalgia. Ho detto, ah sì, però nostalgia di quei giocattoli, di quei videogiochi, di quelle cose. Però nostalgia, poi ci penso, ma ce li ho tutti adesso, anzi, ne ho anche di più di quelli che avevo e posso anche usarli quando voglio. Quindi effettivamente non c'è quasi nulla che mi manca. Cibi spazzatura, l'ha detto Davide, sì, ci sono anche, magari non ci sono più gli stessi, però... Sì, sono altri, ma più o meno sono spazzatura uguale. Però effettivamente... Poi in macchina tornando a casa oggi mi è venuta più che una sensazione tipo quella che hai citato tu prima, che io a livello personale io non la sento come la senti tu, cioè il fatto della reperibilità, delle ripetibilità, cioè che poi se vogliamo è anche indicativa del fatto che il tempo sia adesso nello stesso tempo fai molte più cose, quindi hai meno, se vuoi, tempi morti rispetto a una volta, quindi è forse anche quella sensazione lì che tu senti, però certo, io certo, ero già uno incasinato, come ho detto all'epoca, quindi non la sento così tanto. Però c'è un'altra cosa che però non riesco a definire bene, quindi adesso magari la cerco di dire, però sicuramente secondo me tra Simone e Davide riuscite magari a esplicitare questa mia sensazione. C'è quasi una perdita in generale dell'innocenza, cioè della società. C'era un'ignoranza, ecco, un'ignoranza buona rispetto ad adesso, un'ingenuità. Cioè, c'era una, sì, sì. Non so definirla, per questo sto dicendo, cioè il fatto che alcune cose le trattavamo senza malizia o cattiveria, che adesso invece vengono indicate con malizia e cattiveria, e non c'era questa malizia e cattiveria su queste cose. Non sto parlando di cose su cui poi siamo migliorati, come la puntata che abbiamo fatto sull'handicap e tante cose, lì siamo migliorati, ma o anche sui discorsi della sessualità, eccetera, cioè sull'omofobia, eccetera, sono cose migliorative, ma c'erano altre cose, come anche cose quotidiane, come il pericolo, per esempio, la gestione del pericolo, della paura, del farsi male, degli incidenti, della gestione non so come spiegarlo esattamente, cioè più una sensazione, facciamo tante cose abbastanza bene comunque in generale, perché non solo è una, cioè forse secondo me non più che appunto ignoranza, secondo me quella ingenuità e serenità poi alla fine in qualche maniera proprio rapportata al fatto che vivi in un mondo che era diverso, o quantomeno non lo vedevi così minaccioso da un certo punto di vista, no? Poi è vero che magari c'era diciamo, come posso dire, un atteggiamento che oggi tendiamo a voler migliorare, no? Come, che ne so, quello rispetto al ragazzo nero, l'omosessuale e via dicendo, ma prima, esatto, però non c'era un atteggiamento di fobia come c'è, esatto, oggi. C'era un atteggiamento di una cosa strana che non eri abituato a vedere, capito? Però non c'era malizia, malvagità, diciamo, in quello. Invece oggi queste cose magari le guardiamo proprio più con disprezzo, capito? Quindi è un po' questo, quindi c'è questa ingenuità di fondo, sì, che... e poi è aumentato lo spettro delle cose sulle quali abbiamo questo atteggiamento. Una volta era, vabbè, generale, c'era lo straniero, l'uomo di colore, questo, l'uomo, sì, sessuale, però, quattro, però, cose era, adesso era, abbiamo uno spettro vastissimo. Sì, a parte quello che ovviamente poi si amplificano le cose, però come dice Carlo giustamente, era più cioè era più un approccio ingenuo, no? Qui c'era, sì, anche un fattore di ignoranza magari su determinate cose, anche se poi dopo un po' riguardandomi tante cose che sto rivedendo ultimamente, anche facendo ricerche pure per Quando Eravamo Futuro, mi rendo conto che mediamente, attenzione, perché questo è un discorso che aprirebbe poi ulteriori milioni di altre discussioni, mediamente un italiano negli anni 70 intervistato ha una proprietà di linguaggio migliore rispetto a oggi, cioè questo penso che è, insomma, è abbastanza provato dai documenti. Poi che chiaramente quei documenti non siano rappresentativi di un largo spettro della popolazione è un altro discorso, no? Però sì, comunque sono abbastanza d'accordo con Carlo, secondo me c'era proprio, ma anche quando abbiamo fatto la puntata su Alfredino, sì, il modo in cui noi ci siamo approcciati a questa cosa era quella proprio di un mondo che neanche lo immaginava che potesse succedere una cosa del genere. In un certo senso, o che addirittura non immaginava che si potesse stare 24 ore su 24 attaccati a una scatoletta a vedere che cosa succedeva, ad esempio, no? Quindi, sì, ma in tante cose, anche nella... c'era, per assurdo, quando guardo qualche vecchia trasmissione televisiva di quegli anni, mi accorgo che c'era quasi più libertà dal punto di vista della, per esempio, anche di mostrare nudo piuttosto che cose di, diciamo, sconvenienti in quegli anni, che pure c'era la censura, rispetto adesso che non c'è, ma c'è quella censura morale, c'è quella, diciamo, come dicono in America, no? Come la chiamano negli Stati Uniti, il politically correct. Ecco, noi non avevamo il politically correct, adesso abbiamo il politically correct. È arrivato, esatto, esatto, esatto, anche da noi, e il politically correct non è, almeno non è che è proprio quella cosa così bella alcune volte. No, no, è vero, sono d'accordo. Che forse non era più bello prima, però vabbè, è più una sensazione, come ne avevo parlato anche sulla scuola, quando nei nostri periodi, quando facevamo una cazzata, i genitori venivano, ci prendevano a schiaffone e ci portavano a casa. Adesso fai, certo, una cazzata, arrivano e tirano i ceffoni ai professori. Esatto, sì. E quello, per esempio, è una delle cose, cioè il fatto anche di comportamenti che sono attualmente considerati sconvenienti, ma all'epoca non lo erano, e forse non è così sbagliato dire che non lo fossero, nel senso, poi vabbè, questo è un discorso complesso. No, però, esatto, è complesso, però sicuramente questa è una cosa che è cambiata, no, molto. Io sono molto d'accordo anche su questo aspetto qua, perché io per esempio quando ero ragazzino ricordo una cosa che poi negli anni 90 non ho più visto, che era quella per esempio delle pubblicità con le foto di nudo su giornali tipo Oggi e Gioia, per esempio. Sì, sì, esatto, farvi capire. Presente, cioè presente. C'era un approccio, diciamo, alla manifestazione entusiastica della libertà, che oggi quasi quasi ce la vogliamo togliere questa libertà, cioè piuttosto, oh Dio, la libertà. E quindi su questo sono d'accordo. Sono frizzato col video, scusate ragazzi. Sì, sì, sì. A me sì. Simone, sì, mi vede. Ti vedo frizzato, sì. Allora provo a uscire e rientrare. Scusate. Va bene. Comunque è un bel pensiero quello di Carlo. Veramente devo dire che mi ha colto, diciamo così, di sorpresa, perché non mi aspettavo di fare questo tipo di ragionamento, però devo dire che sono assolutamente d'accordo con voi. Ciao Carlo, bentornato. Sono tornato mobile. Yes. Che si muovi, sì, esatto. Questo restream, secondo me, ancora ci devono lavorare un po' solo, ragazzi, ci fate pagare delle cose che ancora non funzionano. Ti eri bloccato in una posa perfetta, però bellissimo, esatto. Stai proprio bene. Esatto, comunque bello, bello, mi è piaciuto sto pensiero. Invece io, il mio secondo punto è molto collegato al primo, secondo me, in qualche maniera, che è anche collegato un po' a quello che diceva Carlo prima, cioè nel senso la mia necessità di anonimato, in qualche maniera, cioè avevi la percezione di subire meno vigilanza, cioè di essere meno sotto controllo, di essere più libero nel tuo movimento, no? Anche perché probabilmente tecnologicamente era così, cioè nel senso non c'erano gli strumenti che ci sono oggi e che sono degli strumenti che ci danno un vantaggio su determinate situazioni, ma come tutte le cose, anche in questo caso la compensazione dell'universo ti tolgono qualcosa, no? Cioè nel senso, io ad esempio faccio l'esempio di una cosa di cui abbiamo già parlato e guarda caso, anche questa è collegata ai telefoni, è lo scherzo telefonico. Cioè oggi un ragazzo probabilmente, adesso io non lo so perché non mi ci metto, però probabilmente oggi un ragazzo non lo può fare uno scherzo telefonico, cioè è più difficile, diciamo, è molto complicato fare lo scherzo telefonico, perché io mi ricordo che a volte noi ragazzi ci passavamo le ore a fare queste cose che poi erano una cosa da stronzi, se uno... faceva parte dell'elenco dei giochi che facevamo, no, giocare a pallone, fatto trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche, ma poi se tu ci pensi oggi, no, nel senso, al di là di quelle, cioè quando tu facevi lo scherzo alla vecchietta, la cosa che si spaventa, cioè dopo oggi da ripensarci sei uno stronzo, cioè, però eri un ragazzino, non ci pensavi, e non lo voglio giustificare, però non mi pento neanche, capito? Cioè, no, poi capitavano anche a noi, cioè, scusate, capitava anche a noi, nel senso, noi facevamo le scherze, ma ogni tanto capitava che chiamavano scherzi, a casa mia, sì. E facevano le scherze a casa mia. Perché penso di averlo raccontato proprio qui a quando eravamo futuro, che uno dei più belli scherzi telefonici che ho subito, l'ho fatto. E dice, come l'hai subito, ma l'hai fatto? E sì, perché praticamente ero ubriaco a sta festa, prendono il telefono, fanno un numero a caso e gli fanno, dai Simo, dai, manda a fanculo. Io prendo il telefono, dico, a fanculo, e dall'altra parte c'era mia madre che mi fa, come? E io, mamma, attaccato, fantocce lei. Esatto. Poi il giorno dopo non ha fatto completamente finta di niente, giustamente. Donna di grande dignità, mia madre. Che, insomma, erano degli amici che mi hanno imitato. Io non so niente. No, non c'era niente da dire. Tra me e lei non c'era niente da dire quando lei, anche se faceva la voce, Simone. Niente, questa è un'altra cosa che mi manca, perché, cioè, mi manca, in realtà non mi manca effettivamente, perché oggi non mi metterei a fare gli scherzi telefonici, però se fossi giovane e avendo vissuto quel tipo di esperienza oggi mi sarebbe mancato, insomma. Un discorso paradossale, esatto. Quindi paradossale. Sappiamo che sei un tirapacchi e vorresti fare gli scherzi telefonici. Sì, io ho detto, c'è, cioè, da Melchioni a via Tuscolana c'è ancora gente che fa fila per prendere il Commodore 64. Quindi l'ho già raccontato, inutile che lo riracconto. Insomma, noi facciamo. Però se lo racconti, quasi quasi vado anch'io in coda. No, era lo sconto, era? No, noi facciamo finta di essere una nuova radio. E quindi chiamavamo la gente a caso e dicevamo, signora, guardi, questa è Radio KFJ di Roma, del Tuscolano, dice, però purtroppo, sai, siamo talmente nuovi che ancora non ci chiama nessuno per il quiz, vuole partecipare lei al quiz? Poi d'altronde, se vince, insomma, c'è anche il premio, no? Ah sì, ok, quindi si ricordi che adesso la mandiamo in onda e lei... È lei che ha chiamato, se lo ricordi, insomma. Allora poi facevamo tutto un gioco. Io c'avevo il telefono con due cornette che mio padre comprò. Io non ho mai capito per quale motivo, ma ti giuro, mi ha svoltato la vita quella cosa. Mi ha svoltato la vita perché ci facevamo le cose. Cioè, sembrava veramente di passare la telefonata alla radio. E lo speaker, che era un mio amico, io non ci sarei mai riuscito. Io ero bravo a fare scherzi telefonici, però lui era un fenomeno. Il campione proprio. Mi sarebbe venuto da ridere, cioè non c'è niente da fare. Allora sono le 27, sì, sono le 21:13 di sera qui a Radio KFJ. Abbiamo una telefonata incredibile, abbiamo la signora Maria. Maria, insomma, vuole partecipare al quiz? Ah sì sì, grazie grazie, siete fantastici. Questa che si medesimava, no? Giustamente. Allora adesso facciamo una domanda: se lei vince, vince un Commodore 64 da Melchioni a Via Tuscolana, bla bla bla. Ovviamente per ritirare il premio dovrà andare lì a nome della radio, e diciamo il nome della radio, siamo ovviamente, loro sono i nostri sponsor, andate lì, dite che venite a nome, dite il vostro nome, sarete nella lista e vi daranno il vostro premio. E che stai qua, vuole partecipare? Sì sì, voglio partecipare. Leggevamo una cosa delle parole crociate che tra l'altro era anche assurda, perché cioè, le parole crociate non sono domande, ma sono frasi riferite alla colonna e le righe del, cioè, quindi nel senso ci vuole anche un rapporto visivo a quello che tu stai facendo. Comunque questi vincevano, gli facevamo l'aiutino, insomma alla fine vincevano, e a 3-4 persone le abbiamo mandate da Melchioni a ritirare sto cazzo del Commodore 64. Se c'è qualcuno in onda adesso di Melchioni, ti... esatto, adesso viene da te, adesso dammi il mio Commodore 64, oppure sei tu il maledetto che ci mandavi tutta qua, ma tu e me lo devi dare nuovo e boxato, perché quella era un'epoca in cui oggi forse non ci saremmo neanche andati a ritirare il premio, perché magari la cosa non c'è, ma secondo me all'epoca, negli anni 80, secondo me la gente c'è andata da Melchioni, certo che c'è andata, sì. Detto, sarà anche uno scherzo, ma proviamoci, alla peggio mi diranno ciao, ti dicono no, certo, chiaro. Ma poi li registravi su cassetta e li sì, tenevi? Sì, io ho videocassette con queste registrazioni, devo solo riuscire a capire se riesco a... mandamele su, che c'ho la cosa per fare il travaso, no? Ok. C'ho qua tutto, che sto facendo i travasi dei video che forse usciranno nella prossima stagione. Tra l'altro sì, dobbiamo... esatto. Robe storiche. Un nuovo progetto, sì. Va bene. Niente, questo era il mio secondo punto. Davide? Allora, il mio secondo punto in realtà è un punto... credo che tutti noi ovviamente abbiamo amato la musica di quegli anni, e in qualche modo da boomer ci raccontiamo che oggi, insomma, quanto era bella la musica degli anni 80. Esatto, e la musica di oggi, insomma, è bella, sì, però invece, no, in realtà, e quello che più rimpiango sono i grandi artisti che ora non ci sono più, e quindi la consapevolezza e la certezza che non avremo più quel tipo di musica in nessun modo, mai più quel tipo di musica da quegli autori che magari ci sono piaciuti tantissimo, e che il tempo è passato e loro non ci sono più, e questa è forse una delle cose che più magari un po' mi dispiace. E quelli che sono rimasti fra un po' non ci saranno più, vabbè, anche noi stessi anche noi tra un po' non ci saremo più. Però diciamo che la musica sì, e io ancora oggi ovviamente da bravo boomer. Beh, ma musica tu che ascolta... sei pure un autore no, bangalo, no, a parte quello, diciamo che gran parte della musica che ascolto è sempre musica un pochino di quei periodi, sì. Per esempio mi dispiace non poter più sentire musica di David Bowie, di Michael Jackson e altri che invece avrei ascoltato volentieri, dei nuovi brani. Poi ci sono certo nuovi artisti, tanta nuova musica, tante nuove robe. Adesso non è forse il periodo più felice per la musica, perché siamo nel girone della trap e del rap e di quella roba lì che non è proprio la mia passione. Però prima o poi passerà e arriverà qualcos'altro e via. Sì. Però, diciamo che io sono più legato al rock degli anni 70 che più che alla disco degli anni 80 in generale, proprio come tipo di qualità e in generale anche come sensibilità, diciamo. A me la musica degli anni 80, allora, a me tutto questo revivalismo degli anni 80, l'ho già detto tante volte, in fondo mi sta pure un po' sul cazzo, perché gli anni 80 sono stati belli nel momento in cui li abbiamo vissuti, cioè nel senso oggi si sta meglio degli anni 80. Abbiamo visto dall'inizio della puntata. Sì, sì, ma io non l'ho mai negato questo, cioè non è che ho detto mai il contrario. Abbiamo perso parte della nostra virginità, abbiamo perso parte della nostra ingenuità, abbiamo perso forse parte anche della nostra libertà, ma indiscutibilmente oggi in proporzione non sento l'esigenza di guardare gli anni 80 come dico oddio come se stava meglio, quando se stava peggio. Però chiaramente in questo caso stiamo parlando di cose che ci possono mancare, perché il fatto che ci mancano può anche essere solo una questione strettamente affettiva, cioè poteva anche essere veramente un oggetto che c'era solo tanta, sì, diciamo che la musica che abbiamo ascoltato quando, come tutti ascoltano la musica da giovani, sono quelle che ci hanno formato la nostra consapevolezza della musica, nel senso noi siamo nati con quella musica e la nostra mente musicale, le nostre passioni, il nostro gusto è maturato con quel tipo di musica. Poi dopo uno è sempre disposto a ascoltare roba nuova eccetera, però insomma la musica che tu hai ascoltato quando avevi, insomma, in quegli anni quando eri giovane, è quella che ti ha formato la tua passione musicale, ecco. Ed è per quello, diciamo, che quando tu senti le robe più nuove, insomma, le valuti e forse si discosta un po' da quello che è il tuo formamento, ecco, quindi fai sempre più fatica un po' ad accettarla, tra virgolette. Poi questo magari parlo per me, non c'è gente più musicofila che ascolta di tutto da sempre e non ha nessuna passione. Io non sono musicofilo, ma ascolto tutto e mi piace tutto, da musica dalla musica classica agli anni 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, quasi. Anche alcuni cantanti e canzoni trap. Sì, no, ma io devo dire che in realtà ci sono degli artisti attuali, anche trap, che almeno fondamentalmente non disprezzo. E anzi, alcuni mi piacciono anche. Il problema, forse, che contesto di più io nella semplificazione d'accesso alla produzione di contenuti, è tutti questi stronzi su YouTube che fanno tutte queste canzoni trap a manetta, che lì l'80% è spazzatura. Cioè, ma dicevano la stessa cosa della disco anni 80, come, cioè, non c'è la stessa possibilità di accesso, secondo me, oggi. Sì, era un po' meno perché c'era tutto di un po' meno, però in rapporto era la stessa quantità. Sì, oggi... in rapporto sono d'accordo, cioè in proporzione più che in proporzione, sì. Certo. Però chiaramente, cioè, oggi io che oggi è tutto di più. Oggi io che seguo comunque YouTube, lo seguo in maniera abbastanza attiva, perché comunque è un fenomeno che mi interessa. Alla fine, cioè, tu quando vedi che ci stanno 15 trapper che fanno i video a manetta, che ovviamente non, cioè, nel senso, non c'hanno niente se non ovviamente spinti al fatto di fare le visualizzazioni, è chiaro che lì, insomma, produci tanta tanta spazzatura. Ma in realtà questa è una cosa che io sostenevo anche, insomma, 20 anni fa, quando stavo nel forum di videomakers.net, perché l'accesso al digitale ha esponenzialmente aumentato la proporzione democratica rispetto al produrre contenuti artistici, ma allo stesso tempo ha esponenzialmente aumentato la quantità di spazzatura. È inevitabile che sia così, no? Cioè, nel senso, sì, sì. Maggiormente un tuo attacco a uno che inizia con S e finisce con Spadoni. Dallo subito. Io non sono mai nascosto anche frontalmente a lui, poi lui cancella le cose, vabbè, tu comunque, vabbè, non era questo. Invece il mio terzo punto, e poi dopo passo a Carlo, perché immagino che forse questo può essere anche da stimolo, magari come riflessione, sono due punti poi fondamentalmente. Cioè, un punto è effettivo, cioè, quindi parliamo proprio di un oggetto che non è migliore rispetto alle cose che ho da adesso, ma è affettivamente significativo, ovviamente, no? Che è non tanto il Commodore 64 quanto il monitor del Commodore. Cioè il monitor a colori del Commodore 64, che mi ha cambiato anche il modo di vivere il Commodore 64. Anche dici il codice? No, non mi ricordo. No, lo sa, ma lo sa Carlo. 1084. Okay. Questo, sì. O 1701, no, ma mi sa che è difficile che avessi il 170102. Avrei avuto il 1084. Comunque, avete. Vabbè, comunque, era giusto per. Era questo bellissimo monitor a colori. Tra l'altro, ebbi pure un monitor per Amiga. Successivamente, ma questo non c'entra niente. Che era un monitor a colori, ma c'era un pulsantino per farlo diventare virtualmente fosfori verdi, esatto. Io l'adoravo, quella cosa. 1084S, lo adoravo, una cosa, ragazzi, che mi faceva impazzire. Cioè, io, voi sapete, no, che il mio primo monitor che ho avuto per il VIC-20 era un monitor a fosfori verdi, quindi cioè, nel senso, poi alla fine ho avuto anche, lo attaccavo prevalentemente al televisore, poi dopo insomma, quindi ho avuto varie cose, però il mio monitor a colori del Commodore 64 è stata una cosa che affettivamente sono legato, perché è legato a un, anche a una pictures, diciamo così, della mia esistenza, una sorta di quadretto, no? Questa zona in penombra che poi è quella di tanti di noi, cioè nel senso, sì, questa stanzetta, questa cameretta in penombra con questa fluorescenza azzurra che esce fuori da questo monitor, e da questo monitor in attesa di caricare, e tu entravi in questi mondi meravigliosi fatti dei colori strani, delle cose, c'erano dei rossi fantastici sullo Spectrum, non su cose da guardare. Da 64 c'era il rosso, era quasi marrone, era un mattone, era rosso mattone, bravo, c'è stato. Però era cioè era una meraviglia. Poi il Commodore 64 in particolare, proprio perché aveva questa pastellatura dei colori, era una cosa, c'aveva tutto un suo carisma, tutta la sua personalità. Però in generale, poi mentre che scrivevo questa cosa, mi è venuto in mente il fatto che è una cosa che ha detto poi Davide in un'altra puntata, che penso che sia stata una puntata quella dei giochi, il fatto della creatività. Cioè, secondo me, non credo che oggi non abbiano la creatività, ma credo che comunque allora la creatività a volte era un fattore indispensabile, perché a volte dovevi imparare a programmare per avere un gioco, per fare qualcosa di diverso con il tuo computer. B, a volte tu i giochi te li inventavi. C, se non avevi il gioco, quindi l'oggetto, facevi, immaginavi che ci fosse. Basta insomma anche pensare al fatto che tu magari giocavi a guardie e ladri facendo finta di sparare quando non sparavi, no? Nel senso, ecco, diciamo, cioè, c'era anche lo spazio per immaginare che di fare qualcosa che non c'era. Oggi è che è molto più difficile cercare di fare qualcosa che non esista, perché diciamo c'è che i ragazzini di oggi, secondo me, hanno un rapporto diverso con l'esterno, non solo per una questione tecnologica, ma per una questione proprio di educazione. Cioè i genitori li disincentivano perché hanno paura dell'esterno, quando abbiamo detto tante volte noi dovevamo aver paura dell'esterno, perché noi quando andavamo ai giardinetti c'erano le siringhe così per terra, sì, negli anni 70-80 l'eroina la trovavi dal droghiere, appunto, cioè dal farmacista. Quindi quando noi andavamo nei parchi c'era veramente il rischio di fatte male, di cose. Oggi che forse in certi contesti la situazione è più controllata da un certo punto di vista, invece si disincentiva il ragazzino perché ci sono le macchine, perché oddio scappano, oddio corrono, oddio chissà dove vanno, oppure come persone che conosco io cadono per terra e si sporcano. Porca puttana, che gli succede? Si ricollega alla sensazione che dicevo prima, cioè il fatto che effettivamente era più questa la sensazione che avevo, nel senso del quel pericolo che adesso non fa fare tante cose, o anche cioè sono anche i genitori che non fanno fare certe cose ai figli per questa sensazione di pericolo, e si perdono magari delle cose. Per esempio, io invece lo so che ci si preoccupa e tutto quanto, mio figlio che ha 12 anni vuole uscire in bicicletta, io vivo in un paese, quindi le macchine ci sono, eccetera. Lui prende la bici, va dal suo amico che sta magari a 1 chilometro, 2 chilometri. Ieri è andato in bicicletta all'oratorio, è caduto, tornato a casa, si è gonfiato il dito, stamattina pronto soccorso, e adesso c'ha l'abbraccio in gessato, si è rotto il dito. Però sono cose che succedono, quindi e appunto io mi sono rotti tutte e due, voglia, però vedi che questa cosa qua in alcuni non dovevi farlo andare in bicicletta, non doveva uscire, cioè lo tieni sempre in casa e poi ti lamenti perché gioca alla PlayStation o perché sta sempre attaccato al tablet, al cellulare. Questo è un problema, infatti io non è un controsenso, no? Perché i ragazzini sono il riflesso di quello che poi noi a volte gli mettiamo davanti. Guardo il fatto che siamo noi che non, io per esempio, questa per me è stata una lotta, vabbè, mia moglie lo sa, Michele lo sa, cioè per me è stata una lotta contro i miei soci da subito, perché noi quando siamo venuti a abitare a questa casa, Matteo aveva la scuola a 700 metri da qua, e noi abbiamo subito fatto, da quando siamo spostati qua, abbiamo fatto in modo che lui andasse con le chiavi di casa a scuola da solo. Capirai la tragedia, cioè la guerra, il cazzino, tu fai fare il cazzino che poi lo ficchino sotto e lo rupeno. E vabbè, questo è un po'. E quindi, cioè, questa è una grossa, profonda differenza, un grosso solco rispetto alla nostra generazione. E ribadisco, anche qui non è una questione di meglio o peggio, ma sicuramente erano le condizioni diverse. Noi percepivamo, lo sapevamo che c'era il pericolo, però lo percepivamo in maniera diversa e forse eravamo più responsabilizzati, magari, non lo so questo, perché questa è una cosa che ho buttato così giù adesso. Su questo non lo so, però non lo sicuro... so manco io, in effetti, non lo so manco io, non è detto così, però... era un modo diverso di viverlo. Io prima ho detto quella frase del più ignoranti o più incoscienti o più, non so, ingenui, ecco, in generale nella società. Però in effetti io trovo che mi manca un po', nel senso che in alcune case vivo male questa cosa. E succede anche a me, come di sentire, appunto, come hai detto tu prima, gente che dice no, non esce perché si sporca, non esce perché non farlo uscire, tiene a casa, oppure invece secondo me bisogna lasciargli questa libertà. Questa libertà poi per me vale per tutto, perché io non ho, non sono, per esempio, c'è gente che non lo fa uscire perché si sporca, come dici tu, il bambino, però non lo fa giocare alla PlayStation o 5 minuti e poi spegne tutto. È un controsenso anche questo, cioè io sì, lo faccio uscire e se vuole giocare gioca. È ovvio che se poi sta attaccato 6 ore lo sacco, ma non è che gli dai 5 minuti e spegni perché no, ma questo è un po' un atteggiamento oppressivo che c'hai nei confronti del ragazzino, perché c'hai questa cosa di controllo nei confronti della sua vita, quando i ragazzini tante volte si sanno autodeterminare anche da soli. Poi qualora non ci riescono, è chiaro che tu sei in grado di poter intervenire. Il problema è che secondo me le persone non sono in grado di avere un'interazione serena con le persone che stanno intorno in generale. Questa è una disabitudine grossa, perché tante volte, come dici, perché il ragazzino gli dici sempre di sì, perché poi piagni, ma cioè, il lavoro dell'educatore è quello, cioè, se non te vado a farlo non lo far, figlio, insomma, semplicemente. Però comunque, vabbè, questo è un altro tipo di discorso. Però ecco, questa cosa della creatività, del guadagnarsi quasi, insomma, io mi ricordo che c'era il periodo in cui andava, non so se ve lo ricordate, il cartone animato di Re Artù, che lui aveva l'Excalibur che era sfavillante, no? Cioè aveva, era, insomma, faceva la luce, no? E quindi io mi ricordo che con un mio amico ci siamo messi lì col coso, col compensato, abbiamo ritagliato, abbiamo fatto la spada e poi abbiamo cercato una vernice luminosa che non esisteva, cioè esisteva, perché esistevano le vernici fluorescenti, però anzi fosforescenti. Però insomma, diciamo che si diceva che erano radioattive, io non so se perché insomma per mettere luce c'era comunque una radiazione, si diceva. Allora cercavamo qualcosa che facesse sembrare, insomma, cioè nel senso un po' te le inventavi le cose. Ecco, questa è una cosa che per esempio penso che se io fossi un ragazzo oggi mi mancherebbe tanto, insomma. Però sempre questo è un altro paradosso che non che sto dicendo, insomma. Vai Carlo. Vabbè, no, quello che hai detto mi sono riallacciato prima, ho detto su questo della creatività non sono così d'accordo, perché vedo mio figlio, vedo i suoi compagni, vedo mia figlia eccetera, e queste cose le fanno, le hanno sempre fatte, cioè vedevano una cosa poi tentano di costruirla, fanno, maneggiano, cioè in realtà vivono la vita come la vivevamo noi, cioè, al massimo è la società che dà delle limitazioni a loro che noi magari non avevamo o li vivevamo in maniera diversa, ma come, diciamo, rapporto verso la creatività, verso il divertimento, verso la socialità eccetera, vedo esattamente lo stesso comportamento che avevo io o che avevamo noi quando in generale nella società dei ragazzi dell'epoca. E poi niente, alla fine, pensando, come giustamente ha detto Davide, se devo ripensare cose che effettivamente mi mancano, non ce ne sono, provo un grosso senso di nostalgia a volte per come vivevamo, ma perché era un altro mondo, perché ero giovane, perché ci divertivamo, ed è più un senso di nostalgia più che un senso di mancanza, anzi è sicuramente nostalgia, non è qualcosa tale per cui sì, nostalgia. La voglio assolutamente anche adesso. No, sono d'accordo, nostalgia, come dicevano quelli, nostalgia canaglia, giustamente. Canaglia, ovviamente. Poi c'è gente che confonde la nostalgia con la felicità, ma quello è un altro fattore. Vai, sì, dai. Più che altro, allora, questa è una cosa che io ho avuto in un momento particolare della mia vita, tantissimi anni fa, che non era riferita a un momento temporale, ma era riferita a un momento della mia vita. Quindi guardare al passato come poi dopo questa cosa fortunatamente mi è passata, ci ho lavorato anche sopra, cioè non c'ho una visione nostalgica e malinconica del mio passato, c'ho un ricordo entusiastico del mio passato. Io sono contento di aver vissuto quello che ho vissuto, ma non lo guardo come però potessi tornare indietro, cioè no, proprio non, no. Cioè, perché io sono arrivato, come dico sempre, esattamente nel punto in cui evidentemente dovevo arrivare, e questo mi basta a me, cioè, in tutto sommato, in qualche maniera. Eh sì, no, sicuramente sì, ogni tanto quando ci pensi piacerebbe ritornare indietro, per solamente perché per essere giovane, tutto lì, ma non perché rimpiangevi le cose che c'erano, ma solo c'è un motivo, è quello l'unico che ti spinge forse a pensare di voler tornare indietro e ricominciare, anche perché almeno per me, per voi un po' meno, si comincia a intravedere un po' la luce, sì, ogni tanto ti fermi a pensare, dici effettivamente ho meno anni davanti di quelli che sono questo passati, mi capita anche a me. Esatto. Quanti saranno? 20 anni ancora, bene, 25, cioè, nel senso, sì, questo è vero, ci pensi un pochino, ogni tanto ci pensi, sì, però sti cazzi, meglio cominciarci a fare adesso, possiamo fare, che è più divertente, insomma. Esatto. Comunque, ricollegandomi un attimo al discorso creatività, aggiungo solo che anche un intervento di Vincenzo, se lo vuoi leggere dopo, dopo sì, dicevo, è una cosa che dico spesso, e lo dico spesso anche quando faccio dei racconti sui video di survival hacking, parlando di quando avevamo molte più limitazioni, cioè avevamo oggetti meno performanti, oggetti meno potenti, avevamo meno disponibilità finanziarie, avevamo pochissime cose, e secondo me sfruttavamo molto meglio queste poche cose che avevamo per cercare di ottenere dei grossi risultati, mentre oggi invece abbiamo quasi risorse illimitate, e sebbene abbiamo risorse illimitate non riusciamo a, diciamo, parlando sempre dei ragazzi giovani, non vengono sfruttati come potrebbero essere. Cioè, se io avessi avuto quello che c'era oggi ai suoi tempi, chissà che cosa avrei potuto fare, mi dico sempre, poi non lo so, però sicuramente la ristrettezza, le limitazioni aguzzano l'ingegno, secondo me, in qualche modo, più di quanto invece lo possa aguzzare il fatto di avere tutto, di avere tutto disponibile, quello che vuoi. Quando hai tutto sfrutti meno, secondo me, la tua capacità. Non è per tutti, probabilmente è un discorso generico, però vedo spesso che nonostante tutto quello che c'è, la gente non la sfrutta, mentre invece quando noi avevamo due cose, gli facciamo delle magie delle volte con queste due cose. Questo è il mio pensiero, così. Forse mi viene da pensare, per quanto ero creativo io, se ci avessi avuto gli strumenti da adesso, no? Forse vabbè, quello sì. A volte faccio questa riflessione, nel senso, se avessi avuto l'opportunità di avere gli strumenti di video editing come quelli che abbiamo oggi, o anche di sviluppo delle varie cose in generale. Ma quante volte hai fatto delle cose che andavano oltre quello che potevano fare gli strumenti che avevi? Quasi? Guarda, io te devo dire, ho detto tante volte, io col montaggio analogico e con la pellicola, quindi con la moviola, io facevo cose che le persone normali non facevano, ovviamente. Perché non perché non aveva, nessuno aveva la moviola in casa. Non avevo più gli strumenti, ma insomma, anche se ce l'avessero avuto, magari non ci si mettevano. Cioè, la gente al massimo comunque faceva un lavoro da iacuci, io invece a volte facevo le dissolvenze, decoloravo i fotogrammi, cioè ragazzi. Tu nel video, l'elettronica, ho visto in CKE dei ragazzi che veramente non potevano comprarsi più che 1000 lire di cose, e poi non avevano proprio disponibilità, avevano un saldatore tutto scassato, avevano un pezzo di stagno, avevano, ogni tanto gli regalavo quasi delle robe anch'io, così, perché li vedevo proprio che venivano lì ogni giorno a comprare una resistenza, 100 lire, eppure poi alla fine facevano delle cose, dici, ma come cacchio hai fatto? Mi sono messo lì, ho fatto, e vedevo questo impegno incredibile nonostante la ristrettezza, l'ho visto anche nel quando la gente lavorava sui computer molto limitati, riuscivano a fare delle cose incredibili aggirando tutte il sistema, o comunque andando a trovare delle soluzioni. Ancora, si vedono ancora meglio oggi, no? Quando vedi certi programmi fatti per lo Spectrum oggi, che li guardi e dici, se ci fossero stati in quegli anni, lo Spectrum avrebbe avuto una vita più onorevole. Più onorevole, però, perché anche eliminare il color clash e fare il multicolor non gli permetteva di raggiungere. Cioè. No, insomma. Lo Spectrum era meraviglioso da programmare, cioè una cosa spettacolare. No, comunque, vabbè, le ristrettezze secondo me aguzzano l'ingegno. Questo basta, è il mio motto. Ok, vabbè, una pausa, un applauso. Poi perché hai scritto as soon? Infatti sì. È sbagliato? A breve? No, è soon e basta. E basta, sì. Non ci va. Vabbè. È ormai andato. E poi tra l'altro ricordiamo che Davide ci manda i trailer, ma in realtà sono le puntate. In effetti, sembrano quei trailer dove vedi tutto il film, praticamente dici cosa vado al cinema. No, questo era per far vedere in 2 minuti dall'idea alla realizzazione, però poi dopo c'è ovviamente il video dove la gente lo può vedere e se lo può costruire. Che poi è una domanda che mi sono sempre fatto, ma la lavagnetta quella lì magica lì, no? Sì. Che cosa c'era? Cioè, come polvere, era una polvere, come si dice? Un po' di alluminio, non era un quarzo, per esempio, non era uno schermo al quarzo. No, meccanica, era completamente meccanica. Un pezzo di plastica trasparente, e dentro c'era una polvere che si appiccica e praticamente il pennino la grattava via. cioè, sì, tu esatto. Tiravi scuotendo, questa polvere si appiccicava al vetro e quindi diventava tutto di un colore. E se tu eri bravo e lo disegnavi tutto, diventava più o meno trasparente, potevi vedere il meccanismo dentro anche. Esattamente. Però era via tutta la polvere, vedete, ed esistito di dentro che giravano. Sì, non sono riuscito a farci niente di che, devo dire. Se sì, guarda, anch'io nel video parlo più che qualche scarabocchio non riesco a fare, però in realtà è tutto iniziato perché ho visto dei video di gente, di artisti che fanno dei disegni della Madonna. Sono rimasto lì imbambolato a vederli e dicevo: porca miseria, ma come cacchio è possibile? Poi da lì ho detto: ma cacchio, ma esiste elettronica? Ho guardato in giro, cercato, eccetera. Quando ho visto l'incipit del tuo video, ero convinto che tu volessi prendere una lavagnetta magica vera e interfacciarci un'interfaccia che disegnasse in automatico. Esatto, e quello l'hanno fatto in 100.000 invece. Quello ce n'è un casino di gente che ha attaccato due motori passo passo e si fanno tutti i disegni, no? Okay. Infatti ho trovato molti di quelli, ma non ho trovato nessuno che ha fatto la lavagnetta che con due potenziometri sposti il cursore e disegni, no? Certo, molto semplice, un programmino stupidissimo. Sì, ha detto: ma non l'ha fatto praticamente nessuno. Ha detto: allora lo faccio io. Beh, allora, ho fatto lo stampo, stampato il disegno, ho fatto tutto da zero, a prima un prototipo volante per vedere se andava, e dopo ho realizzato tutto, va a batterie, funziona, è venuto un prodotto simpatico. Domenica esce il video, ok, quindi insomma godete. Venerdì per i Patreon e domenica per tutti. Bravi Patreon, bravi. Bravi Patreon, mi capita Patreon. Va bene ragazzi, abbiamo qualcos'altro da aggiungere? Io volevo solo aggiungere, ma non lo dico neanche, perché comunque il mio terzo punto parlava di film, ma in realtà sui film è complicato, non c'è molto da rimpiangere e di volere, però sicuramente per noi, e l'abbiamo già raccontato nell'episodio dei film, il crescendo di film che abbiamo visto in quei periodi, oggi lo vedo più ci sono tantissimi bellissimi film, c'è tutto fatti perfetti, bellissimi, spaziali, però noi abbiamo vissuto sempre quel periodo dal niente al vedere tante belle cose che diventavano sempre più belle. Oggi la gente parte di vedere già cose bellissime e vedono migliorare sempre di più queste cose bellissime. Ma noi siamo partiti veramente a vedere i pupazzetti animati a passo 1 con Godzilla a passo 1 a cominciare a vedere della roba sempre più accattivante, che ci ha dato. Diciamo, negli anni '80 c'è stata quella scuola, perché era stata proprio la scuola di cinema del film d'avventura, no? Esatto. In qualche maniera, secondo me, è irreplicabile. Oggi tanti film e telefilm ammiccano, diciamo, a quel periodo, non solo dal punto di vista narrativo, ma anche dal punto di vista stilistico, senza poterci arrivare, perché quella era comunque erano persone che erano nate con quello, e dal punto di vista della scrittura e della tecnica cinematografica sono ancora oggi, secondo me, impareggiabili. Dicevamo, discutendo del quarto film di Indiana Jones, che tutti dicono che non esiste, per quanto sia un film conosciuto, roba del genere, se tu vedi le scene degli inseguimenti con le camionette, è Spielberg degli anni '80 quello, cioè è quella scuola lì, e quelli sono maestri a fare quel tipo di cosa che oggi è diverso, oggi sono maestri a fare altro, capito? Cioè, sì. No, ma la cosa che volevo solo accentuare è che prima di quello non è che c'era molto altro, cioè è nato da lì, tante cose sono nate lì e noi le abbiamo viste nascere e ci hanno come dire, formato un pochino la mente a certe cose che non c'erano prima, davvero non c'era quasi niente prima di questo. Quindi abbiamo avuto questo periodo di come sui computer, prima di computer, videogiochi, cinema. Esatto. Di televisione, è nato tutto in quegli anni e noi l'abbiamo visto nascere. Esatto. Però, sicuramente siamo stati fortunati perché ne abbiamo visto la nascita, però che sia una cosa poi positiva o negativa, questo non è relativo. Però diciamo che pensando all'indietro un po' nostalgicamente, è stato un periodo che ci ha dato molte emozioni, ecco, cose che invece sono un po' meno, come è giusto che sia, voglio dire, in generale. Però diciamo che io mi sento invece privilegiato proprio di aver accompagnato, diciamo, non dico la primissima era, ma l'era in cui il computer è entrato nelle case, che secondo me era informatica domestica, pionieristico, no? Quindi da un punto di vista, quindi sono fiero di aver vissuto quella cosa. Le generazioni dopo saranno fiere di aver vissuto altri passaggi, altri progressi, certo. O altre rivoluzioni, cioè questo non lo metto in discussione, però dal mio io spesso e volentieri, come vedete, uso la luce verde, ma la luce verde non è soltanto la rappresentazione del colore che io amo di più in assoluto, ma perché per me ricorda il colore verde, è il colore di quel periodo lì, come ho detto prima, il fosforo verde, che comunque a me rimane un'icona, no? Cioè io oggi vedo un monitor a fosfori verdi vero, non le cose colorate dei verdi, e rimango ancora incantato, cioè non c'è cazzo da fare, però è perché l'ho vissuto, non perché è meglio, peggio, destra, sinistra. Penso che il mio primo monitor invece è stato a fosfori ambra, sì, me l'avevi detto, sì. Io ce n'avevo uno in ufficio ambra, che ero affascinato perché dicevo, ma come poi, perché per me esistono solo i fosfori verdi, cioè, quindi mi dicevo, ma com'è questo, cioè, deve essere qualche problema, oh. C'ha una pellicola, c'è una pellicola davanti. No, ma poi comunque il bello è che si vedeva, perché comunque dietro, se tu vedevi, c'è quella fluorescenza, comunque la vedevi che era quello il colore, no? Cioè, non è che... Certo, era emetteva quel colore, era proprio perché, quel colore. Perché noi guardavamo cioè io per esempio quando ero ragazzino non c'avevo niente da fare, una lente, c'era una lente di ingrandimento grossa così, e cioè veramente faceva ingrandiva una marea, e mi mettevo sui televisori a guardare la maschera ridicolato le cose, insomma, la maschera, sì, che era diversa tra i Triton, i Philips, eccetera, sì. Cioè, ognuno aveva la sua maschera. Vabbè. Io mi ricordo io ho fame adesso, esatto, mi ricordo comunque del computer a fosfori blu, è possibile? No, io ho visto uno celeste forse. No, non sono né blu né celesti, ma sono semplicemente bianchi. Solo che il fosforo bianco dà quella sensazione di azzurrino o di blu a seconda della regolazione della luminosità. Ma sono fosfori bianchi, sono monitor in bianco e nero. Bene, io comunque mi sa che dalla chat sì, hanno scritto cose, ma insomma non c'è stata una super partecipazione, diciamo, a questa cosa di che cosa vi mancava. Ma volendo, avete tutto il tempo, insomma, di scrivercelo anche durante le prossime settimane. Detto questo, io vi ricordo che questa è l'ultima puntata. Con Quando Eravamo Futuro ci rivediamo a settembre, dove programmeremo sicuramente una nuova stagione, dove abbandoneremo Twitch, ve lo dico sinceramente, a meno che non ci saranno puntate speciali. Il concetto di interconnessione tra radio e canali video sarà: o faremo uno o faremo l'altro, quindi alcune cose le faremo su uno e alcune cose le faremo sull'altro, per ragioni proprio anche pratiche, tecniche, e anche perché non è detto che tutte le cose interessino, insomma, alle persone viste in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Ma detto questo, ci rivediamo a settembre, appunto, con una nuova programmazione. Staremo lì, già abbiamo un documento nel quale scriveremo quali sono le nostre idee degli argomenti da trattare per la prossima stagione. Se volete, suggeriteci anche voi degli argomenti, soprattutto se vi capita andate su www.anatemeradio.it, cliccate su Anch'io e fate una donazione o una ricorrente su Patreon, a seconda di quello che ritenete, insomma, rispetto al lavoro che noi facciamo, perché Quando Eravamo Futuro fa parte del gruppo Runtime, e il Runtime continua e continuerà a produrre anche per la prossima stagione tante belle novità e tante cose nuove. Detto questo, io ringrazio e saluto Davide Gatti, Survival Hacking, andate su YouTube, attivate la campanella, no, prima iscrivete e poi attivate la campanella, mettete like ai video e condivideteli, mi raccomando, non mi fate arrabbiare. E cliccate tanti soldi. Quindi ciao Davide, ciao, buone vacanze a tutti ragazzi, che sicuramente voi andrete, io invece non lo so, non lo sai. E ringrazio e saluto ovviamente il nostro, insomma, capobanda, diciamo, editoriale di Archeologia Informatica, anche lì andate su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, mettete like, condividete, fate tutto quello che potete e supportate e insomma sostenete ovviamente il canale. Ciao Carlo. Ciao a tutti, buonanotte. Buon appetito per chi non ha ancora mangiato come me, e anche se mi toccherà mangiare poco purtroppo. Ciao a tutti, buona estate. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.